about a kid with a great future. But he had something more important. He had heart. And now, ladies and gentlemen, the makers of Human Emotions. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Yes, that killed. Right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game. So what I call this, a ball's quick to smash with pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. I gotta tell you how I feel in the rhyme. I say, you gotta hear it how I feel in the rhyme. And the truth, you can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you wanna do. Be on top of your game. So what I call this, a ball's quick to smash with pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. I say, I gotta tell you how I feel in the rhyme. And yo, you gotta hear it how I feel in the rhyme. Looking at my Casio, about that time. It takes a military action, yo, I gots to shine. And the only way to do it is to stay fluid with the rhyme. So I'ma stay on the grind, plus walk a thin line. I gots to get mine, whether it's straight or doing crimes. I'ma motivate like a guide dog, lead the blind through this shit. Whole planet, I'm searching to try to find a reason to stay alive. Crossfading to survive, oncoming obstacles. Got a pocket, a piece of the pie. Wild, wild west, I gotta reach it for the sky. When I rocket to the top of the mountain, divine's what they call me. So follow me, all in together now. Divide from the rest of the genre, testing my limits. But I've invested into a life sentence of this. And I'm meant for this shit like Phantom Force or Wax Taylor. We bringing it from the soul like our first name was Dayla. And the truth, you can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash with pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. And I gotta tell you how I feel in the rhyme. And you gotta hear it how I feel in the rhyme. And what's the truth? You can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash with pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. And I gotta tell you how I feel in the rhyme. And you gotta hear it how I feel in the rhyme. And to all my people, this is it. Hey kid, walk straight, master your high. Or be a bystander lost in this catacomb of a labyrinth. Let me take it back past lifestyle using my landing cars. I set up rhymes for a decoy. I'm the other brother, watch the MCs we destroy in this binary operation. What you facing? My man Wax Taylor and the big O, with flows creator. Galaxy of planet seeds for the world to see. It's beautiful thing, but deadly like a sword swing. Animation frequencies run fast in the mercury with a telegram to let you know you're not the man. Examine the hologram, we'll see you soon. Switch the tune as we put the self-control and throw a sonic boom. The subject matter, your heart will shrivel up in submission to us. It's supernatural when we discuss the truth. You can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you're gonna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash the pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. Yo, I gotta tell you how I feel in the rhyme. Yo, you gotta hear it how I feel in the rhyme. The truth, man, you can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash the pressure on the heartless. So every day I gotta walk a line. You gotta tell me how you feel in the rhyme and say, I gotta tell you how I feel in the rhyme and say, you gotta hear it how I feel in the rhyme. In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento. Yeah. Ed eccoci alle 21.06, siete in ascolto con Radio Possum e la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento. Sulle frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa. E di cosa parleremo oggi? Della Palestinian Animal League. Benissimo, e quindi ci mettiamo subito in collegamento con appunto un attivista che ha portato questa associazione anche in Italia e vi lasciamo con un brano, così facciamo la telefonata. A fra poco. Ed eccoci tornati in onda. Ci senti? Sì. Ciao. Ciao. Noi abbiamo in realtà anticipato ben poco, abbiamo soltanto detto che appunto ci mettevamo in collegamento con un attivista che ha portato la Palestina Animal League in Italia, però appunto partiamo da che cos'è Palestina Animal League, se ci vuoi fare una panoramica, ecco. Sì, Palestinian Animal League è un'organizzazione nata nei territori occupati, precisamente in un campo profughi vicino a Ramallah, nel 2011, per iniziativa di questi attivisti vegetariani e vegani palestinesi, e da un anno questa organizzazione è supportata da un gruppo inglese che li ha aiutati comunque a diventare un po' più internazionale, diciamo, con un sito, una pagina Facebook, e quindi c'è è stata portata in Europa, poi adesso anche in Italia. A gennaio verranno in tour questi rappresentanti proprio dalla Palestina, con alcune date che faremo in Italia. E sentiva evidentemente l'esigenza di un'organizzazione del genere che si occupasse anche dell'aspetto dello sfruttamento animale, sia nella società palestinese che per in conseguenza dell'occupazione militare israeliana. E quando e quindi nasce? Sono molto contenta che sia nata. E quando nasce appunto questa associazione? Come nasce? Nasce nel 2011 appunto in questo campo profughi, e iniziano organizzando delle giornate dove i bambini vengono avvicinati agli animali, sia quelli più comuni che quelli magari più selvatici, che si trovano solamente nei pochi posti ancora intatti che ci sono nei territori occupati. Infatti organizzano anche delle escursioni appunto nella natura per far riconnettere appunto i bambini troppo spesso confinati all'interno del campo profughi o all'interno anche delle proprie case, invece appunto facendoli conoscere cos'è l'ambiente intorno, come di cosa è composto, insomma, quindi gli alberi, gli animali. E poi nel tempo sono cresciute le iniziative, organizzano anche una giornata all'anno dove insomma si parla di veganismo, cioè quindi c'è una festa in tutto il campo profughi dove si cucina, si parla appunto di animali, di diritti animali. E ora appunto grazie a questi attivisti inglesi diciamo ci sono un po' più di contatti, anche agganci con organizzazioni un po' più importanti, per esempio una che si occupa di cavalli equidi comunque, quindi cavalli e asini, che ha finanziato un progetto che verrà appunto portato avanti nei territori occupati, dove si cercherà di educare e anche assistere questi animali che vengono comunque usati anche nei lavori dei campi. E poi è nata da poco una clinica, cioè è stato un progetto all'interno di alcune università palestinesi con gli studenti di veterinaria. Questi studenti si sono resi disponibili appunto a portare avanti questa clinica mobile che porterà appunto assistenza veterinaria nei posti remoti, comunque dove non è possibile accedere alle minime cure, porteranno appunto a queste cure agli animali di persone che comunque non si possono permettere certamente un veterinario. E insomma le iniziative ce ne sono in campo molte e speriamo che insomma si realizzeranno. Ecco, volevo fare una domanda. Come hai percepito sia all'interno di un territorio difficile come quello il lavoro di un'organizzazione del genere? Se hai avuto non so, sguardi prima di sospetto che poi si sono ammorbiditi, oppure se da subito c'è stata una buona risposta da parte, diciamo così, della società civile? E poi volevo anche chiederti se al di fuori invece di quei territori, a livello diciamo di altre associazioni, organizzazioni che insomma condividono con voi questa battaglia, si sono palesati diciamo da oltreoceano, dall'Europa, così, e in che modo? Sì, allora per quanto riguarda la nascita di Palestinian Animal League, come è stato percepito appunto questa organizzazione nella sua nascita, c'è un bello scritto di uno dei fondatori, che tra l'altro si trova sul sito internet anche tradotto in italiano, dove lui spiega appunto come è stato difficile, perché in Palestina per aprire, come credo anche in altri stati, per aprire una ONG c'è tutta una trafila, quindi documenti, permessi, e quindi loro continuavano a migrare da un ufficio all'altro, a conoscere funzionari, ministri, e tutti ovviamente avevano un approccio abbastanza ridicolizzanti, comunque dicevano: ah, vedo che avete risolto tutti i vostri problemi, infatti adesso vi occupate degli animali, non considerando appunto che questi ragazzi vivono in un campo profughi e quindi con tutto quello che comporta. E a un certo punto questo ragazzo ha chiesto a questo funzionario di spiegare cos'è la Palestina, e questo non sapeva spiegare che cosa intendesse per Palestina, se la Palestina era solo il popolo, quindi gli ha risposto: allora si può essere palestinesi ovunque, cioè non c'è bisogno di nessun altro, se uno è palestinese può essere palestinese in qualsiasi parte del mondo. Ma appunto lui diceva: la Palestina è ben più che la gente, è ben più che il popolo, è anche la terra, quindi anche gli alberi, anche gli animali che abitano la terra e tutto quello che è, tutta la connessione che c'è con questo territorio, con l'ambiente, con la natura. E quindi diciamo che questo funzionario a quel punto deve aver iniziato a ragionare del fatto che non è secondaria la sensibilità, comunque l'urgenza di occuparsi anche di tutto ciò che è la Palestina, oltre alle persone, agli esseri umani, no? E per quanto riguarda invece la percezione di questa organizzazione negli altri, insomma, nel mondo, c'è stato un buon appoggio, perché oltre appunto al gruppo di sostegno che è nato in Inghilterra, anche in America, c'è stato negli Stati Uniti, c'è stato una buona risposta, un buon sostegno. Infatti all'ultima conferenza sull'ecologia che c'è stata a Portland, cioè è stato a giugno, c'è stata una conference su temi di ecologia radicale, è stata tenuta appunto una presentazione da due ragazze statunitensi ma di origine palestinese, che hanno fatto un quadro dell'occupazione israeliana e quindi come questa occupazione militare così invadente, così inarrestabile, che conseguenze ha anche su gli animali e comunque appunto la natura. E quindi diciamo che per essere un'organizzazione così giovane ha già sollevato un bel po' di interesse, anche perché se ne sentiva proprio l'esigenza, insomma. Certo. Ci fa anche piacere. Citi la conferenza di Portland, perché tra l'altro era una notizia che noi avevamo dato, così ci era venuta sotto gli occhi qualche puntata fa, e l'avevamo data senza sapere che poi in effetti avrebbe partecipato anche la PAL, e quindi sì, insomma, ci fa doppiamente piacere. Quello che volevo chiederti adesso è che comunque oltre alla, diciamo, alla sponda atlantica americana, voci sull'associazione sono arrivate anche in Italia. Abbiamo reperito adesso per esempio un articolo della Stampa di qualche mese fa, che era aprile mi sembra, quindi comunque se ne è parlato anche qui in Italia, e tu puoi magari darci qualche delucidazione su come si evolverà la questione nel nostro paese. Allora, intanto io, vabbè, per ora ho fatto solo un banchetto a una fiera vegana, ho stampato un po' di materiale, ho tradotto i loro articoli, quindi sulla pagina sul sito internet di Palestinian Animal League ci sono appunto anche alcuni articoli tradotti in italiano, e questo perché per preparare un po' il campo alla presenza del gruppo di supporto inglese che si chiama Palestinian Animal League Solidarity a MIVEG, la fiera vegana che ci sarà a Milano. Ho pensato che comunque in un ambiente del genere portare la questione palestinese in questi termini era quello di cui c'era bisogno, almeno io sentivo questa esigenza da sempre, da quando mi occupo della questione palestinese, perché penso che i motivi per, insomma, di riflessione, le connessioni sono veramente tante, soprattutto per come vedo io la questione palestinese, cioè la vedo proprio come una cosa che ha molti punti di contatto con il modo in cui la società tratta gli animali. Appunto non c'è da dimenticare che l'anno scorso in estate sono state uccise più di 2000 persone sotto lo, mentre tutti noi eravamo al mare a prendere il sole, non tutti però insomma, però come se fosse normale, esattamente come gli animali ogni giorno vengono macellati nei macelli. È un po' la percezione che sia del popolo palestinese o anche di altri popoli, è quello che comunque tutto sommato se muoiono ci sono dei motivi e che la loro, la perdita di queste persone tutto sommato non è nulla di grave, ecco. Sempre pensato che comunque il popolo palestinese, per come so io, essendoci anche stata molte volte, passa proprio come un popolo privo di dignità, cioè come se non ci fosse nemmeno la, cioè non desse più notizie, non dà notizia quello che succede in Palestina, non dà notizie, comunque anche le vittime sono delle vittime di secondo ordine, insomma. E questa c'è, cioè, tutta una motivazione che vabbè, che magari approfondiremo, ma. E proprio per questo, come appunto loro affrontano la questione dell'occupazione israeliana, come associazione, come si pongono su questa questione? Hanno scritto qualcosa, o trattano soltanto di animali, o tengono dentro entrambi i discorsi? No, certo, parlare solo di animali non è possibile, anche perché la loro identità e la loro condizione di palestinesi che vivono in campi profughi, quindi significa con una storia di profughi, nel senso con i nonni che sono stati cacciati dalle terre che adesso sono Israele, non è possibile chiaramente per loro fare a meno di parlarne, e non vogliono nemmeno, infatti. Diciamo che l'occupazione è presente quotidianamente nelle loro vite, infatti quando un mese e mezzo fa c'è stata la notizia di questo leone ucciso nello Zimbabwe, proprio negli stessi giorni, che comunque ha fatto appunto il giro del mondo, ha suscitato una levata di un giusto sdegno verso questa uccisione, proprio negli stessi giorni un neonato palestinese veniva bruciato vivo nella sua casa dai coloni israeliani, e in risposta ci sono stati degli scontri nei territori occupati, proprio anche nel campo profughi vicino a Ramallah, dove la Palestina Animal League è nata, e un ragazzo è morto, ucciso dai militari israeliani, quindi un ragazzo che loro conoscevano, il cui padre li aveva aiutati a fondare l'associazione, quindi è stata colpita anche negli affetti, cioè questi attivisti comunque hanno costantemente, fanno ovviamente, devono fare fronte a anche alla possibilità di morire, chiaramente magari non morire per la loro attività di, insomma, di sensibilizzazione verso gli animali, ma morire in quanto palestinesi. È questo. Pronto? Magari, non sì, sento bene. Ci senti? Sì, adesso sì. Perfetto. No, magari una domanda un po' personale, era così per curiosità, per chiederti come avevi fatto tu a incontrare loro, visto che sei stata lì più volte, e che tipo di incontro è stato con loro, e poi te ne farò un'altra al termine della risposta. Ah, ok. No, io vado in Palestina da tanti anni, molti anni prima che questa organizzazione nascesse. Io ho conosciuto il ragazzo fondatore dell'associazione a una conferenza in Lussemburgo, dove lui è salito sul palco e appena ha iniziato a parlare io ho capito che lui era palestinese, perché era un tipico modo di parlare inglese dei palestinesi, e non potevo credere ovviamente alle mie orecchie, perché dicevo no, ma questo non può essere un palestinese che viene a parlare di diritti animali, del fatto che hanno fondato questa associazione, quindi ero felicissima, non mi sembrava vero. Poi quando ho saputo che attivisti inglesi avevano iniziato a creare questo gruppo di supporto, ovviamente ho voluto subito collaborare. Adesso spero di riuscire, insomma, in quello che ho sempre voluto fare. L'altra cosa che volevo chiederti è se tu l'hai incontrato in Lussemburgo, posso immaginare più o meno il contesto quale fosse, e quindi volevo sapere anche se per i fondatori di questa associazione si parla, cioè utilizzano magari disinvoltamente il termine antispecismo o le teorie o magari leggono di queste questioni, oppure se loro un approccio che viene prettamente dall'aver messo insieme i due temi vivendoci insieme, quello della, diciamo, repressione umana e quello della repressione animale. Se insomma approcciano al tema da una parte anche, diciamo, di testi, di letteratura in merito, oppure se il loro è un approccio che viene veramente dall'esperienza. Sì, credo che il loro approccio, la loro consapevolezza sia nata più dall'esperienza, più da una serie di ragionamenti, come d'altronde la mia. Non sento l'esigenza di approfondire, lo sento di approfondire da un punto di vista filosofico, ovviamente sì, c'è tantissima, però credo che comunque loro sicuramente non hanno più di tanto approfondito magari la letteratura scritta sull'antispecismo, però diciamo che quello che hanno maturato probabilmente vale molto più di tante riflessioni, perché è reale, perché nasce proprio da, non so, da cose che anche io lì ho provato. Cioè è impossibile per una persona che riesce a fare delle connessioni, essere in un posto dove c'è un'occupazione militare, non pensare che ci sono anche gli animali, anche la terra che respira questa occupazione. Non so se ho risposto, ma... Certo, no, infatti era una domanda proprio di curiosità, non mi andava, figurati, di mettere qualcosa sopra l'altro, nel senso di fare una gerarchia tra l'approccio, diciamo, testuale, da topo di biblioteca, oppure quello da invece persona sul campo. È piuttosto interessante, in effetti, che anche perché penso che loro abbiano un difficile accesso a certi testi per la condizione in cui vivono quotidianamente, quindi anzi stupisce e fa piacere che delle persone che ovviamente non si trovano nella bambagia come noi occidentali facciano i ragionamenti molto prima di noi, vivendoci in mezzo. Certo, sì, poi comunque gli aspetti pratici sono talmente tanti e sono talmente impellenti che sicuramente non c'è neanche il tempo probabilmente per approfondire. Poi anche per questi testi magari ci vorrebbe una conoscenza dell'inglese molto più specifica di quella che hanno loro, ecco. Cioè, non sono stati tradotti sicuramente in arabo questi testi, quindi anche quello . Sì, io volevo aggiungere anche un'altra cosa, che comunque oltre a dover far fronte all'occupazione israeliana e tutto ciò che comporta di devastazione territoriale, personale, di comunità e quant'altro, devono anche far fronte al cosiddetto greenwashing israeliano, di un esercito israeliano che comunque vuole ripulire la propria facciata, a volte sponsorizzandosi anche come antispecista o vegano. Infatti abbiamo fatto più di una trasmissione su questo tema, di come nell'esercito israeliano fossero adottati degli abiti vegani per chi lo richiedesse, fosse fornito cibo vegano, e quindi anche a dover vivere queste contraddizioni e anche l'appoggio ad Israele di una serie di associazioni anche animaliste a fronte di queste scelte, quindi devono anche affrontare tutte queste contraddizioni vivendo sulla loro pelle invece la sopraffrazione e la distruzione quotidiana, ecco. Certo, beh, è vero che Israele è sempre vista come la terra comunque delle innovazioni, comunque del progresso anche umano, perché rispetto agli altri paesi arabi, visto, cioè degli altri paesi che la circondano e che sono arabi, è vista come appunto la terra delle libertà. No, oltre al greenwashing, che è abbastanza recente, prima c'è stato il pinkwashing, perché anche il fatto, cioè Tel Aviv è conosciuta come la città del divertimento, dell'eguaglianza, diciamo, sessuale, dei diritti dei gay, e quindi in questo senso io invece gli anarchici contro il muro avevano fatto proprio una buona analisi, avevano scritto tante cose relative a questo pinkwashing appunto, e qualcuno di loro ha scritto anche a riguardo del greenwashing. Per questo tipo di analisi appunto mi rifaccio più a quello che scrivono i pochi attivisti israeliani che sono anche vegani, cioè sono anarchici e sono vegani, e che hanno molto di più il quadro della situazione. Probabilmente non ho mai parlato con i ragazzi palestinesi, i ragazzi e le ragazze palestinesi di questo, sicuramente sarà un tema che vorremmo, che affronteremo sia a Mireg sia nella prossima tournée che faremo l'anno prossimo. Credo che loro la guardino come la solita, diciamo, come la solita cosa ridicola, come la solita violenza che viene fatta contro i palestinesi, nel senso probabilmente ci ridono anche sopra, perché è talmente ridicolo appunto che si parli di veganismo all'interno insomma, o comunque di promozione del veganismo all'interno di un esercito che poi, oltre a ammazzare migliaia di civili, uccide anche gli animali. Vabbè, questo credo che loro con la solita ironia palestinese se la prendono abbastanza così sul ridere. Invece per delle analisi un po' più appunto anche più dentro alla società israeliana, ecco, magari ci sono molti blog scritti da attivisti israeliani che analizzano tutte queste cose. Ecco, io ti volevo chiedere, facendo un passo indietro e poi un altro avanti, se per esempio quando fanno i ragazzi dell'organizzazione fanno degli eventi sul territorio, dei giornate di incontro, insomma, che cosa si fa esattamente con chi viene a trovarli? Prima domanda. L'altra cosa che volevo chiederti è se, crescendo in numero e in iniziative, creando una rete sul territorio, insomma, qualcuno si è, non so, c'è qualche altra organizzazione, qualche altro gruppo che ha tentato di mettergli i bastoni tra le ruote, o insomma se vivono tranquilli per il momento? Ma per quanto riguarda l'ultima cosa che mi hai chiesto, non mi risulta, cioè nessuno ha messo bastoni tra le ruote. Poi questo io personalmente non lo so ora. Invece per la cosa appunto delle loro giornate aperte che organizzano nel campo profughi dove è nata l'associazione, e anche in altri, invitano tutte le persone del campo, quindi ovviamente incentrandosi moltissimo sui bambini, quindi come se fossero i nostri campi estivi, l'oratorio feriale, insomma, no? Una cosa così. Dove giocare, chiaramente divertirsi, scappare, cioè evadere dalla realtà chiaramente dell'occupazione, ma con uno sguardo anche agli animali, quindi anche facendo conoscere per esempio i cuccioli di cane, che i gatti hanno uno strapotere, possono andare ovunque, fanno quello che vogliono, i cani tradizionalmente sono tenuti un po' più alla larga, però chiaramente ci sono, e non è vero che necessariamente vengano bastonati o uccisi, purtroppo succede, infatti anche su questo vogliono lavorare, oltre che fare hanno fatto una campagna di censimento dei cani selvatici, perché appunto, come dicevo prima, con i veterinari dell'università vogliono iniziare appunto a sterilizzarli. È una campagna di sterilizzazione che purtroppo è necessaria, perché comunque il territorio è quello che è, e chiaramente i conflitti con gli uomini si acuiscono sempre di più, degli animali e degli uomini. E quindi in queste giornate, dove appunto vengono esposti tutti i programmi, dove comunque si porta anche la cucina vegana al popolo, diciamo. Sono adesso anche più frequenti e sono molto partecipate. E quali sono le prossime iniziative che tu sai lì in Palestina, piuttosto che anche in Europa, a Londra, piuttosto che in Italia? Quali sono i prossimi iniziative di promozione, diffusione e di condivisione di Palestina Animal League? Allora, proprio in questi giorni c'è la conferenza annuale che ormai viene fatta in Lussemburgo, dove partecipano il fondatore di Palestinian Animal League e l'attivista inglese che ha fondato invece il gruppo di sostegno, e quindi anche lì verrà portato ancora di più all'attenzione anche agli altri ad attivisti da tutto il mondo la questione palestinese, perché comunque anche per mia esperienza personale nel mondo animalista, antispecista, diciamo che c'è sempre stata abbastanza diffidenza verso la questione palestinese, e infatti anche all'interno di associazioni che portano avanti anche in modo abbastanza radicale la lotta per i diritti animali, per la liberazione animale, c'è sempre un po' di diffidenza, comunque di non voler prendere una posizione, no, rispetto a Israele e Palestina, perché chiaramente fa paura, e questo è un argomento molto scomodo, e quindi mi farà molto piacere anche portare appunto questa questione al MIVEG, perché sarà proprio, cioè, ci sarà una platea di persone che hanno sempre evitato, insomma, di ragionare sullo sfruttamento umano, sulla guerra, sulle occupazioni militari, e in Inghilterra ne fanno continuamente di questi incontri. Comunque se si guarda appunto sul sito di Palestinian Animal League Solidarity, ci sono tutte le date che stanno facendo anche in Inghilterra, sono veramente tante. E poi appunto speriamo a gennaio, febbraio comunque di organizzare un bel tour in Italia, perché insomma gli argomenti da dibattere sono tanti ed è ora che si faccia. Diciamo che non è che la Palestina sia l'unico argomento o l'unico posto dove si realizza la violenza umana e l'occupazione, il colonialismo, però è proprio un buon esempio, perché poi da lì si può iniziare anche a ragionare su altro, insomma. Certo. E che dici, ci vuoi lasciare qualche contatto, qualche riferimento per leggere un po' di articoli, un sito, tutto? Sì, quello allora, che hai. C'è il sito che è www.palsolidarity.wordpress.com, è il sito, e poi c'è la pagina Facebook che è Palestinian Animal League Solidarity. E appunto sul sito si troveranno tutto il materiale in inglese, ma anche articoli tradotti in italiano, quindi sarebbe bello iniziare a diffonderli così, e preparare un po' il terreno a quello che verrà. Benissimo, non so se vuoi aggiungere altro che comunque ritieni significativo, che non abbiamo affrontato in questa discussione. No, credo di no. Penso che gli elementi per, insomma, iniziare un po' a ragionare ci sono, poi non sono persona di troppe parole. Insomma, se avete altre domande mi fa piacere. No, anche noi penso che ti abbiamo chiesto tutto quello che ci veniva a mente, sbaglio? Sì, sei stata super esaustiva. Va bene. E allora, ecco, ti ringraziamo per questo contributo, e niente, ci risentiamo su queste frequenze per ogni aggiornamento. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Ciao. Buona serata. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, ciao. Buona serata, ciao. Ciao. A due pietre scure, occhi che spalancano universi. Lei a due pietre scure, occhi che spalancano universi. Lei a due pietre scure, occhi che spalancano universi. Rieccoci tornati in diretta per chiudere questa puntata con qualche notizia. Volevamo presentarvi un nuovo redattore che è venuto a trovarci qui, è un ragazzo, abbiate pazienza e pietà di lui se sarà un po' imbarazzato nella lettura di ben tre notizie questa sera, e vi presentiamo il nuovo arrivato. Sì, non ve ne leggerò tre naturalmente. Vabbè, la prima notizia che vi do riguarda il processo Green Hill. L'udienza del 16 giugno è stata dedicata alla dichiarazione e deposizioni delle persone imputate. Alcune di loro hanno una dichiarazione scritta. A scegliere questa formula sono state soltanto, ricordiamo, alcune persone, non tutte. Ci sarà la prossima udienza il 21 settembre alle ore 10:30. Durante questa udienza sarà ascoltato un testimone per la difesa. Seguirà la discussione dove il PM formulerà la richiesta delle pene per le persone imputate e gli avvocati della difesa faranno l'arringa difensiva. È probabile che la sentenza venga emessa il giorno stesso, ma ciò dipende dallo svolgimento dell'udienza. Quindi vi invitiamo così a tenere lo sguardo vigile sul processo di Green Hill che si terrà il 21 settembre 2015. Allora, beh, mi tocca tornare in voce perché il nostro redattore si è emozionato. E vabbè, le altre notizie che volevamo dare sono la mostra fotografica che verrà presentata al Margutta, al ristorante Margutta di Roma, che si chiama che è in via Margutta 118, questo mercoledì 16 settembre alle 19. Ripeto, mercoledì 16 settembre alle 19 ci sarà questa mostra della straordinaria fotografa americana Joan MacArthur, che presenterà questo suo lavoro che si intitola We Animals, cioè Noi Animali. Un titolo, diciamo, semplice ed eloquente lo classifica questa agenzia di stampa che stiamo leggendo in questo momento. E fa parte di un tour, questa sua presentazione, che inizierà a Bologna, che è iniziato a Bologna il 13 settembre, cioè ieri, e arriverà domani a Firenze e poi il 16 a Roma. Quindi vi invitiamo a vedere questa mostra al Margutta di Roma, in via Margutta 118, alle ore 19 di dopodomani. Mentre passiamo all'ultimissima notizia, che è quella dell'incontro di Liberazione Animale, che si terrà questo weekend, il 18, il 19 e il 20 settembre, alla nuova Casa del Popolo, La Casona, a Ponticelli di Malalbergo in provincia di Bologna. Quindi Ponticelli di Malalbergo in provincia di Bologna, 18, 19 e 20 settembre ci sarà l'undicesima edizione dell'incontro di Liberazione Animale. Preceduta venerdì, quindi il 18, dalle 15 in piazza Trento Trieste a Ferrara, da un presidio contro la vivisezione. Questo perché ci sono nei nuovi locali del polo chimico biomedico dell'Università di Ferrara, saranno rinchiusi in attesa di essere torturati e uccisi sui tavoli dei laboratori. Stiamo leggendo dal sito www.incontroliberazioneanimale.net. Saranno rinchiusi in attesa di essere torturati e uccisi sui tavoli dei laboratori centinaia di nuove vittime del sapere scientifico. Questo luogo, ancora in costruzione, a due passi da dove ci incontreremo per discutere quest'anno, sarà la prima tappa del nostro percorso. Quindi vi invitiamo, se volete venire all'incontro di Liberazione Animale del 18, 19 e 20 settembre alla nuova Casa del Popolo a Ponticelli di Malalbergo in provincia di Bologna, a fare un salto magari anche al presidio, e per eventuali informazioni a consultare il sito www.incontroliberazioneanimale.net, tutto attaccato. Prima di darvi i contatti, però, vi lasciamo un pochettino di musica di sottofondo, questa bellissima musica che ci accompagna. Hai messo una canzone da 10 minuti? Sì, questa, una bellissima musica che ci accompagna verso il saluto e... la serenità e poi vediamo i contatti. Se è molto bella, non vorremmo così interrompere questa musica. Vi lasciamo. Ma chi può dirlo? Vi lasciamo. Vorrei dire qualcosa anche tu in questa trasmissione o no? Va bene, abbiamo una redattrice che ha fatto un voto del silenzio in questa trasmissione. E vogliamo lasciare almeno i contatti della radio? Sì, allora ricordiamo il conto corrente postale 6180 4001, la intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Valci 56 00185, Roma. E poi per chi vuole sottoscrivere in forma così virtuale, telematica, come preferite, dal sito www.ondarossa.info ci sta il bottoncino giallo sostieni, dove potete appunto sottoscrivere alla radio tramite PayPal o tramite carta di credito. Oppure per chi diciamo è più tradizionale o preferisce, preferiamo anche noi, potete passare qui dagli studi di Viale Walsh 56 e così partecipare a, prendendo una delle autoproduzioni della radio, oppure lasciando una sottoscrizione, perché no, farsi quattro chiacchiere con il redattore o la redattrice di turno. Vi ricordiamo pure il telefono, lo 06 49 17 50, e l'email ondarossa@ondarossa.info. Thank you. rientriamo di nuovo in onda dando i nostri contatti, che sono per il blog radiopossum.noblogs.org e per chi ci vuole scrivere lagazzaladra@inventati.org. Scriveteci, chiamateci. Se lo dici con questa voce probabilmente non lo farà mai nessuno, però. Ma perché io sto in linea con la canzone, lo so, pure per poetica. Quello probabilmente non lo farà mai nessuno. Chi apprezza la poesia, allora. E va bene, e siamo arrivati quindi a conclusione, e come se non volete mai più sentire questa canzone, scriveteci. Saremo lieti di accogliere la vostra richiesta. Va bene, comunque ci salutiamo qui, e come sempre un saluto va a tutti e tutte coloro che sono privati della propria libertà personale, siano essi umani o non. Ciao. Ciao.